Allora, benvenuti e benvenute a Cajaque Rock. Cominciamo oggi questa serie di trasmissioni sul rock dell'America Latina e partiamo dalla nazione che ha la più solida e lunga tradizione in questo senso, l'Argentina. Cominciamo con un gruppo che è in piena attività, Las Manos de Filippi, gruppo di Buenos Aires che nasce nel 92 e che rapidamente si è costruito un rumorosissimo e fedele seguito, suonando ovunque fosse possibile. Nello stato del 94 il gruppo parte per un intenso giro nel vicino Uruguay. Registrano le prime tracce per l'etichetta DBN in una compilation che si intitolava Alta Attention. Tra queste c'era l'Inno del Cucumelo, che diventerà in seguito uno dei pezzi che identificano il gruppo. Allora, la canzone parla di un viaggio nella provincia di Misiones, alla ricerca del fungo allucinogeno, il cucumelo, appunto. Il gruppo ha trovato il passaggio, ha trovato lo zebù, l'animale sulla cui merda cresce il fungo, ma non vuole piovere. Pezzo ottiene un discreto successo, ma la DBN è un'etichetta commerciale che vuole continuare la tradizione tipica argentina della cumbia. Propongono quindi di stampare un disco, ma hanno paura dell'impatto violento della musica. Cosa fa Las Manos? Formano quindi il loro primo dei numerosi gruppi alter ego. Si chiama Agrupación Mamani. Viene stampato un disco, Reír por no llorar, ridere per non piangere, ma i testi non cambiano e mantengono l'ironia graffiante e la critica senza mezzi termini. E l'Inno del Cucumelo diventa quindi così. Conseguí cebú y no quiere llover. che cucù, che cucumelo. E lì sta la cumbia del cucumelo. Cucù, che cucù, che cucumelo. Buona sta la cumbia del cucumelo. Dicevo dei gruppi alter ego, in pratica tutti i membri della band sono anche in altri gruppi, che della Smanos mantengono però ironia e critica. Oltre alla Gruppación Mamani che abbiamo appena sentito, ci sono la Corporación Stimulation, MGM, e quello che per me è il più divertente, è il Cecino, che sarebbe il Che Guevara cinese, gruppo di cumbia e tango argentino, del cantante Carlitos Cabra. Vi faccio sentire e l'Incia Pelotas, il rompicoglioni. Si alguien me dice sí, yo le digo no. Si alguien me dice no, le pregunto qué. Y hasta que me responden ese por qué. Sin escucharlo niego, pero yo sé. Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Cuando saco boleto para viajar, aunque tengo moneda no se la doy. Le digo al conductor que es un animal, que no lleva ganado sepa el señor. Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Cuando miramos en casa la TV, siempre control remoto lo agarro yo. Vemos cinco películas a la vez, nunca las entendemos pero yo sé. Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Qué hincha pelota que soy, qué hincha pelota que soy. Cuando la gente muy ocupada está, cuando no tiene tiempo para perder, entro a casa por casa evangelizar. Sepan que soy ateo, sepan también lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Cuando la tele alguna receta da, al primero que chista lo hago callar. Amontono papeles en un cajón, pero cuando cocino, cocino arroz. Que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando voy a una peña y hay un cantor, por más que el tipo cante canciones de él, yo le grito cántame de pastoral, y él me mira creyendo que yo no sé. Lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Sepan que trabajo en un taller donde fabrican algo que yo inventé. Al gremio de transporte se lo ofrecí, y al gremio de transporte se lo vendí. Sepan que soy el inventor de las ventanillas para colectivo, esas que tienen el parante aluminio justo a la altura de la vista. ¡Qué hincha pelota que soy! Qualche anno dopo arriva Señor Cobranza, una delle loro canzoni più famose, che viene però portata a successo da un altro gruppo, i Bersuit Vergarabat. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la... Forse qualcuno avrà infatti già sentito questa versione, quella dei Bersuit, ma come detto l'originale è proprio della Smano De Filippi. Come è stato possibile? Abbiamo già detto che fin dal principio della sua storia il gruppo si caratterizza per i testi senza peli sulla lingua, sconvenienti, che attaccano direttamente e senza mezzi termini il potere. Non facciamo musica legata alla vendita, né che convenga a nessuna compagnia discografica, affermava Monkey, chitarrista e cantante, in un'intervista di qualche anno fa. In pratica il gruppo non è commercializzabile, troppi rischi di denunce e gabole varie con il mondo politico messo sotto accusa. Quindi cosa succede con questa canzone che ha dato inizio alla fortuna poi dei Bersuit? Il tema era inedito e la Mano De Filippi aveva appena finito di registrare in maniera totalmente indipendente Arriba Las Manos, Esto Es El Estado, in un garage di Buenos Aires, costo totale 200 pesos. Nello stesso tempo Bersuit Vergarabat aveva pronto il suo album, già rivisto dalla casa discografica. Mancava solo il permesso della Manos per questa canzone, Señor Cobranza. E a questo punto arrivano gli emissari della Universal, la casa discografica che stampa Libertinaje, l'album dei Bersuit che conterrà appunto Señor Cobranza, promettendo di comprare e distribuire Arriba Las Manos. In realtà quello che vogliono è la firma liberatoria per la canzone, la manovra riesce, la mano firmano e la Universal si rimangia la parola e gli sconvenienti Mano De Filippi vedranno sì pubblicare il disco nel 98 come Libertinaje dei Bersuit, ma le condizioni di pubblicità e marketing non verranno rispettate. Il contratto verrà sciolto e la Mano De Filippi torna all'indipendenza totale. La Manos continuerà comunque a suonare questa canzone e noi ci ascoltiamo l'originale. Si es que tienen, o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, si no el sistema qué, no me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita de que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende es otro hit. Son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Me dicen del dedito que le meten de Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que le meten de Jujuy. Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, no van a querer comprar con discurso. Si no le sale. Son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete el sistema el dedito en el culito. Ese gran culo de este mundo, yo soy el muro, estalinista, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes que transmiten por cadenas, son de caos, para me quedan, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer, ahora qué, qué nos queda, elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Arriba las manos si trasforma rapidamente in un disco culto per il suo esplicito contenuto politico e di denuncia. I media però, curiosamente, si legge con ironia nel sito del gruppo, snobbano completamente. Vi faccio sentire ancora un pezzo da questo album. Si tratta di La Selección Nacional, la squadra nazionale. In Argentina il calcio è una vera e propria religione, se possibile peggio che in Italia. Nel ritornello la mano cantano: la selezione nazionale è solo un altro ministero dello Stato, uguale a quello che hanno fatto i milicos, i militari, nel 78. Nel 78 infatti si giocarono i campionati del mondo nell'Argentina della dittatura militare di Videla. Thank you. ministerio te fanatiza. Si el ministerio de economía te saca la plata, este ministerio te nacionaliza. Argentina, Argentina, Argentina. Igual, igual, igual que en el Mundial 71. Igual, igual, igual que en el Mundial 71. Igual, igual, igual a los que hicieron lo que hizo en el Mundial. Igual, igual, igual que en el Mundial 71. E nel 2000 arriva il secondo lavoro, completamente indipendente questa volta. Il disco si chiama Las Manos Santas Van a Misa, le mano santi vanno a messa. Graffiante ed ironica cerimonia contro il clero cattolico argentino, che è da sempre legato ai settori più reazionari. L'album è pesantemente censurato e non riesce ad uscire dal circuito dei fans. Questo è Jesús el de la Cruz, Gesù quello della croce, dove prendono per il culo la Universal. Che devo fare con questo ragazzo Gesù, che non mi vuole lavorare? Bye. se metió en la santería, preguntó por Jesús el de la cruz, para ver si lo tenía, no era pura fantasía. La cosa que le enteró, me dijo que me agotó, ya estoy cansado de vender a ese cabrón. El pobre artista ni siquiera se enteró, queda Universal, se ha llenado el pantalón. Firmame acá Jesús, al lado de la cruz, si todo sale bien, lo pagamos. Firmame acá Jesús, al lado de la cruz, si todo sale bien, lo pagamos. Su oportunidad. No deje para mañana esta oportunidad única y exclusiva de adquirir su Biblia, sus estampitas con las explicaciones de las epístolas de todos los apóstoles y tres velas de regalo. Queridos hermanos, no desaproveche esta oportunidad. Llévese hoy mismo su Biblia y ese cursillo esplicativo. Gratis. Stanchi della censura, della situazione, del magna magna locale, partono per l'Europa. Per un anno faranno base a Barcellona, dove suoneranno moltissimo, diverse le collaborazioni con artisti locali, tra i quali Color Humano e Manu Chao. Nel 2001 sono nuovamente in Argentina e parte la tournée Insurrección Popular Huelga General, che significa Insurrezione Popolare Sciopero Generale. E infatti proprio nel dicembre di quell'anno l'Argentina scoppia in una rivolta sociale senza precedenti, eravamo nel 2001 se ricordate. Il tour sarà lunghissimo, 2 anni, ma trovano lo stesso il tempo di registrare, sempre da indipendenti, l'album Hasta las Manos, che ottiene stavolta un enorme successo. La critica al sistema è ormai generalizzata nella società argentina e Las Manos vengono quindi ora fatti passare su qualche radio. Il pezzo Los Métodos Piqueteros è sulla bocca di tutti, lo ascoltiamo. E i Piqueteros sono proprio tra i protagonisti delle lotte del 2001. Nell'agosto del 2002 l'Armano de Filippi suona a conclusione di una manifestazione davanti alla Casa Rosada, la sede del governo. 10.000 Piqueteros cantano Insurrección Popular Huelga General. Você sabia que além de dominar os humanos chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma? Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. ¡Huelga! Imparable la lucha por la huelga general. Me pregunto qué van a hacer con la carpa blanca, los burócratas de Centella, cuando ya no puedan parar la huelga. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general. a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, general. Huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, general. Huelga general. Popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. Nel 2004 esce poi, sempre indipendente, il live Fiesta Señores e partecipano anche ad una compilation, El Demonio e Sotra Cosa, con due pezzi. Senza smentirsi, nonostante il discreto successo, continuano a suonare in situazioni di contestazione sociale o a sostegno dei movimenti di base. Il 23 settembre di quest'anno hanno suonato nella fabbrica a controllo operaio Zanon e vi consiglio di dare un'occhiata al loro sito, che è www.obrerosdezanon.org. Hanno suonato a sostegno appunto degli operai. Io immagino che sia passata anche questa, Cutralco. Hay que matarlos a todos, sí, sí, sí, no Non credo che si possano trovare in Europa i dischi della Mano di Filippi, ma se date un occhio al loro sito, che è www.lasmanos.com.ar, trovate i contatti per farveli mandare eventualmente. E comunque, per fortuna, esiste sempre il peer-to-peer. Scaricate, gente, scaricate. Bene, per stavolta è tutto. Io vi saluto, non prima di dirvi che il nostro indirizzo email è progettoradio@inventati.org. Qualsiasi suggerimento, critica, benvenuti. Alla prossima!